Il corvo vanitoso. C'era una volta uno stormo di corvi che viveva in un boschetto di mango. Oggi tutti erano molto eccitati perché il signor Cow stava andando in vacanza e stava salutando tutti i suoi amici. Ecco la mia torta di mango speciale per te, Cow. Sì, grazie signora Cowning. E prendi questo mucchio di rametti e resina di pino. Non puoi sapere mai dove andrai a costruire il nido. Grazie, Cowton. Mi mancherai. Mi mancherete tutti. Finalmente, raccogliendo tutti i regali che i suoi amici gli avevano dato, il signor Cow volò via. Mr. Cow volò sulle montagne, sui fiumi e attraverso i villaggi e le città. Vedeva il mondo per la prima volta. Un giorno sentì i tuoni e i fulmini. Sembrava che stesse per piovere. Rapidamente si riparò su un albero. Penso che dovrò restare qui stasera. Non è una buona idea volare sotto la pioggia. Mentre il signor Cow si posava sull'albero, sentì uno strano suono. Sbirciò rapidamente fra i rami per vedere da dove provenisse questo suono. Sta per piovere! Evviva! Cosa sono queste creature? Sta volando? Sono uccelli? Ma non sono così belli! Il signor Cow, il corvo, vedeva i pavoni per la prima volta e non riusciva a credere a quanto fossero belli. Confrontò le sue piume nere con le loro, luminose, grandi e colorate. All'improvviso non gli piacque più essere un corvo. Guardatemi, tutto nero e brutto. Voglio essere come loro, così bello e carino. Così il signor Cow guardò i pavoni giorno e notte. Non riusciva a pensare a nient'altro che a diventare un pavone. Ma come? Iniziò a mangiare bacche come loro, a ballare come loro e un giorno ebbe un'idea. Bella piuma di un pavone. Da quel giorno, il signor Cow iniziò a collezionare piume di pavone cadute e quando ne ebbe raccolte abbastanza, prese la resina di pino che il signor Cowton gli aveva dato e mise quelle piume alla sua coda. Ah, ora sono diventato un pavone! Finalmente! Caw! È ora di tornare a casa! Yuhu! Così, pensando di essere un pavone, il signor Cow volò a casa. La signora Cowning vide il signor Cow e chiamò tutti gli altri corvi e in fretta si riunirono sul nido del signor Cow. Bentornato, signor Cow. Com'è andata la tua vacanza? Ci sei mancato davvero? La vacanza è andata bene, grazie. Ma ora non sono più un brutto corvo. Io sono diventato un bellissimo pavone. Ma anche tu sei un corvo. Come osi dire che i corvi sono brutti? Ti ho portato la mia torta di mango. Grazie, ma siccome sono un pavone, mangerò solo delle bacche. I corvi non apprezzarono il comportamento del signor Cow. Decisero così di lasciarlo da solo. Ma il signor Cow non aveva ancora imparato la lezione. Un giorno prese una decisione. Oh, i brutti corvi! Perché dovrei stare con loro? Il mio posto legittimo è con i pavoni. Quindi il signor Cow andò a vivere con i pavoni. Dato che ora sono un pavone, ho pensato di poter stare con voi. I pavoni si consultarono a vicenda e lasciarono stare questo strano pavone. Ma un giorno iniziò a piovere e le piume di pavone del signor Cow caddero. Oh, tu non sei un pavone! Certo che sono un pavone. Mangio come te, sto insieme a te, ho persino piume brillanti e colorate come le tue. Piume come le nostre? Tu sei un corvo! No, io no! Le tue piume nere ti fanno sembrare così bello. Cosa? I pavoni ammirarono le bellissime piume nere del corvo. Il corvo non ci poteva credere. Le tue piume sono così belle e inoltre ti fanno volare in alto nel cielo. Grazie alle nostre lunghe penne possiamo volare solo così basso. Ci piacerebbe poter toccare il cielo come te, ma tu hai lasciato la tua bella famiglia e gli amici corvi e sei venuto qui solo per diventare un pavone? Che vergogna! Va a casa, sii felice di ciò che sei! Alla fine, il signor Cao si rese conto della sua follia e tornò a casa. Ciao, signora Cowling! So che sei arrabbiata con me e me lo merito. Ho cercato di essere chi non sono e nel frattempo ho perso anche la mia famiglia e i miei amici. Ti prego, perdonami. Vuoi un po' della mia torta di mango? Certo, per favore. Sono così stanco di mangiare solo bacche tutto il tempo. Mi dispiace per tutti. Sono un corvo e non importa quante piume metterò su di me, rimarrò un corvo. Bentornato! Vestirsi come qualcuno, mangiare come lui e copiare il suo stile di vita non ci trasformerà in lui. La cosa migliore da fare è essere felici con quello che siamo, perché non importa chi siamo. Siamo speciali e migliori degli altri a modo nostro.